Collagene e proteine culturali non si ferma neanche a marzo e quindi noi torniamo a parlarne ovviamente sempre con le curatrici Alessandra Merolla e Carolina Altilia. Buongiorno ragazze, bentornate. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora ragazze, come appunto dicevo, riprendono gli eventi ovviamente anche nel mese di marzo, tra l'altro il primo sarà proprio domani 8 marzo con delle realtà tutte al femminile, tra l'altro non so se è stata una scelta voluta visto che è l'8 marzo o meno. Allora sì, parto io, Rachele, è stata una scelta voluta, vi parlo dell'appuntamento di domani, ospiteremo due progetti molto interessanti ovviamente dal nostro punto di vista. Sono il primo Shining Silence, che è una performance che nasce dall'incontro, proprio grazie alla residenza artistica avvenuta all'interno di Collagene, tra l'altro, tra due artiste, giovani donne, afferenti da ambiti molto diversi tra loro. Lorella Pierdicca è una designer e progettista grafica che lavora in questo contesto con la 3D Pen, portando il suo progetto che si chiama Gaia Maya, e assieme a lei collaborerà in maniera molto viva e partecipativa la danzatrice e coreografa Corradina Grande, impegnata in una ricerca sull'identità che indaga in qualche modo il rapporto tra il corpo, il mito, la natura e la tecnologia. Le opere di Gaia Maya, quindi di Lorella Pierdicca, portano delle installazioni ad AS sospese nello spazio scenico che creano in qualche modo un'atmosfera surreale. La presenza umana andrà a trasformare di volta in volta la quiete, diciamo creata da Lorella Pierdicca, in un tumulto e in un rumore, in maniera particolare che si tradurrà in un silenzio in qualche modo. Il dialogo tra l'umano e il non umano diventeranno uno specchio tra il fuori e il dentro. L'evanescenza, insomma, della danza, che per sua natura effimera e di trasformazione, metamorfosi in continuo divenire, attraversano e sperimentano un paesaggio interiore, andranno a coabitare con le opere di Lorella Pierdicca in qualche modo. Poi ospiteremo il collettivo Stoniche, che è composto da 5 musicisti residenti in Emilia Romagna e selezionati tramite una open call per partecipare a una residenza artistica che si chiama Forays presso il Centro Musica di Modena. Questa è una collaborazione a cui noi teniamo tantissimo perché nasce in un contesto particolare e in maniera abbastanza spontanea, diciamo, avendo riconosciuto Collagene come contenitore di sperimentazioni, reciprocità, ci hanno contattato per poter accogliere questa sperimentazione artistica frutto di una residenza. Il collettivo è composto da 5 musicisti che sono Giacomo Bertocchi, Demetrio Cecchitelli, Oscar De Caro, Caterina Romano e Giulia Schifani, e presenteranno una composizione sviluppato a partire dall'esperienza delle residenze che ha dato luogo a questa performance che potremo vedere, insomma, e a cui assistere domani. E questo, il collettivo Sonica, è promosso dal Centro di Musica del Comune di Modena all'interno del progetto appunto di residenza Sonda Music Sharing. Poi lascio a Carolina la parola per il prossimo evento del 22 marzo. Allora, l'appuntamento del 22 marzo, che tra l'altro è il penultimo di Collagene, ospiterà un gruppo musicale, i BAB, che portano ad asso un progetto dal titolo Musica Solidificata. Si tratta di una performance per batteria acustica, elettronica e proiezioni video. Come evoca il titolo stesso del progetto, Musica Solidificata, i BAB utilizzano il suono e le immagini come strumento per modificare l'ambiente circostante e generare così architetture dinamiche. Il suono infatti diventa strumento per scolpire forme e volumi nello spazio acustico, mentre le proiezioni video, interagendo con il suono, contribuiscono a manipolare lo spazio visivo, palesando il rapporto tra percezione e immaginazione e fornendo un'esperienza, diciamo, dinamica e mutevole. Oltre a questo gruppo musicale avremo un progetto di fotografia contemporanea dal titolo Atelier di Fabiana Succi, e nasce da due ritrovamenti: una vecchia foto della madre dell'artista, da cui diciamo trae ispirazione il progetto in quanto la madre è Sarte Magliaia, e alcune riviste di moda degli anni 70-80 con intatti i cartamodelli dell'epoca. Fabiana ha scelto immagini rappresentative e iconiche della moda e su ognuna ha realizzato interventi di montage utilizzando i vecchi cartamodelli ritrovati, talvolta cucendoli con ago e filo, come in un vero laboratorio sartoriale, per poi fotografarli e distruggere gli originali, altri invece con montage digitali. Attraverso gli abiti e le loro evoluzioni, e soprattutto l'importanza data al colore, assistiamo alla trasformazione della donna e dell'identità femminile. Quindi in un qual modo ci porteremo dietro l'eredità dell'8 marzo per tutto il mese. Vi volevo fare un'altra domanda, ragazze, perché l'ho detto anche Carolina adesso, siete arrivate un po' agli sgoccioli, no? Con il programma di eventi di Collagene, quindi appunto vi volevo chiedere se avete intenzione di continuare il progetto Collagene. Grazie Rachele sempre per questi assist che ci proponi per poter parlare di questo progetto. Allora sì, Collagene ha tutta la volontà di proseguire il percorso intrapreso con modalità, probabilmente strategie, formule differenti. Questo lo capiremo strada facendo, ci stiamo lavorando. E fino ad ora siamo riusciti a portare avanti brevi residenze artistiche che hanno dato possibilità di incontro a linguaggi del contemporaneo. Abbiamo creato di conseguenza delle possibilità di incontro tra artisti e progettualità diversi, dando come denominatore comune lo spazio da leggere, interpretare e restituire. Abbiamo proposto gli esiti di questi incontri al pubblico attraverso degli eventi culturali accessibili, gratuiti, ma soprattutto mantenendo sempre fedeltà a una qualità di proposta, e ci siamo impegnate quotidianamente a mantenere la promessa e la relazione intrapresa con gli artisti e il pubblico stesso, nonostante le difficoltà contingenti e di contesto, la pandemia, le prime risorse economiche, per farne due, diciamo, per fare due esempi. Sì, aggiungo questo, che ad oggi noi desideriamo, dopo più di un anno di programmazione e anche in un qual modo certi dei risultati raggiunti in termini di desiderata di offerta artistico-culturale verso la città, e certe della qualità, come diceva Ale, della qualità artistica proposta, desideriamo proseguire e mantenere il format che abbiamo visto avere funzionato, appunto incontri tra linguaggi e progetti differenti in un'ottica di interscambio e dialogo produttivi. D'altro canto c'è da dire anche che desideriamo proseguire con maggiore sostenibilità e possibilità di tutelare sempre più anche economicamente il lavoro degli artisti, come di chi lavora e collabora alla buona riuscita di tutto il processo produttivo essenziale. Dunque ci chiediamo in qual modo, in maniera corale, visto che ormai è una questione più che mai sentita e collettiva in ambito culturale, perché vissuta dalla maggior parte delle realtà artistico-culturali della città di Bologna e non solo. Quindi ci chiediamo come un format così ambizioso e altrettanto semplice e fattibile possa trovare possibilità di prosecuzione senza precarizzare da un lato il lavoro degli artisti e dall'altro anche quello degli operatori culturali. In questo processo occorre avere la collaborazione delle istituzioni che emanano bandi pubblici, spesso purtroppo in un'ottica di temporaneità ed efficienza produttiva che non tiene conto del lavoro pregresso che c'è dietro all'organizzazione di una rassegna, di un festival o di una proposta progettuale a lungo termine, e questa è una difficoltà. E qui Rachele, siccome tu hai aperto il vaso di Pandora, io proseguo aggiungendo un anello che ha a che fare con la rete sul territorio, che sentiamo sempre di più come necessità, urgenza in qualche modo, perché occorre fare rete tra realtà culturali che operano in questo ambito in maniera sempre più visionaria e lungimirante, producendo delle operazioni artistiche e culturali che siano sempre più importanti e interessanti, che vadano a colmare le lacune che spesso le istituzioni per propria natura hanno. E qui abbiamo delle possibilità, diciamo. Collagene può diventare un festival o una rassegna nomade itinerante per la città. Abbiamo visto che il contenitore funziona. Come può diventarlo? Cercando dimora in qualche modo in spazi possibili, in rifugi, possibilità di continuità, divenendo una cassa di risonanza di prossimità e ricerche del reale, tentando una riconnessione con i luoghi pubblici e le visioni che li attraversano. A noi il tema dello spazio pubblico è molto caro, ne abbiamo già parlato anche l'altra volta, quindi pensiamo che Collagene possa diventare in qualche modo una materia viva che possa divenire nutrimento per il futuro, cui tutti abbiamo bisogno, approdando nello spazio pubblico, ricondensandosi in qualche maniera in esso e assieme ad esso, cercando e costruendo intelligenze collettive, umanità artistiche, in cui possono incontrarsi target molto diversi, insegnanti, precari, famiglie, operatori culturali, su un terreno duraturo e produttivo, perché stiamo parlando di lavoro per la comunità artistica tout court. Comunque sì, c'è assolutamente tutta la volontà di proseguire con l'Agene, capiremo adesso piano piano come poter continuare.